rimaniena. Esposti alla luce del sole solo quando piove. Sento sole nelle sale sporche come le mie suole. Sale il male che mi provoca, mi cerca e che mi vuole con piatti meschini. E ciò lo fa con il mio nome. Cerco luce dentro il buio che deprime la mia mole. Covo male nella mia persona piena di dolore. Chiudo gli occhi, dal grigio vedo del colore. Vedo fumo colorato che mi stimola parole. Passi fatti a vuoto, senza scarpe, senza piedi. Con gli occhi sbarrati, lanci sguardi ma non vedi. Ciò che ti circonda è differente a ciò che credi. Il sole illumina tutto ma comunque inciampi e cadi. Non ti far sottomettere, vivi in un riflesso senza riflettere. Pensi a sensi che potresti anche usare. Pensieri densi non ti vogliono mollare. Guarda con la mente, guarda in mezzo al sole. Lì c'è la risposta, ma c'è chi non vuole. Fartela trovare, fartela capire. Sai che puoi volare ma non sai dove partire. Sai che sei l'umano, la macchina è in moto. Lo sai che dentro nel profondo non sei vuoto. Guarda con la mente, senti con la pelle. Basta parlare, tira fuori quelle palle. Lascia segno come rima, vola in aria come aliena. La matrice non ci prende perché siamo rima estrema. Lanciami una cima dal palazzo, senatore, per tirarti in mezzo e poi fermarti il cuore. Olio sulle masse, tutti unti dal signore. Chi sta dietro spinge avanti e schiaccia figli col trattore. Sputo un'opinione, te la mando col piccione. Oppure scritta su una foglia con l'aliena vibrazione. Ci sono persone e persone, dividi quelli che fanno i divi e chi le apprezza quando ridi. Come dice Dase nel sigillo in extra beat. Come il tempo smette di girare ed entra in tilt quando con le rime porti la rivoluzione. Un pizzico di evoluzione, una distorta soluzione. Manipolazione del linguaggio universale. Diamo colpi per svegliare la ghiandola pineale. Guarda con la mente, guarda in mezzo al sole. Lì c'è la risposta, ma c'è chi non vuole. Fartela trovare, fartela capire. Sai che puoi volare, ma non sai dove partire. Sai che sei l'umano, la macchina è in moto. Lo sai che dentro nel profondo non sei vuoto. Guarda con la mente, senti con la pelle. Basta parlare, tira fuori quelle palle.